Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Scusate il ritardo, diceva un grande del cinema italiano. Abbiamo fatto un po' tardi quest'oggi, ma andiamo subito a iniziare questo appuntamento con Agorà in onda, venerdì 2 marzo 2018. Siamo alla 19ª puntata e oggi torneremo a parlare di bullismo e come riconoscere i segnali. Lo faremo con in studio appunto il nostro avvocato Marco Mampieri, ospite quest'oggi in trasmissione la dottoressa Enza De Roma, psicologa e psicoterapeuta dell'associazione La Fonte 2004 Onlus. Ho detto tutto bene? Giusto Stefano, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. I nostri radioascoltatori. Oggi riaffronteremo il tema del bullismo che abbiamo già di cui abbiamo già parlato in altre trasmissioni, in particolare con la professoressa Maria Vittoria Frascatani, il capitano dei Carabinieri, in cui abbiamo illustrato alcuni aspetti sia scolastici sia legati al mondo degli strumenti di tutela con il capitano dei Carabinieri. Invece oggi, con la presenza della dottoressa Enza De Roma, parleremo degli aspetti psicologici legati al bullismo e quindi affronteremo il tema dal punto di vista proprio delle conseguenze che il bullismo può avere direttamente sui ragazzi, sulle persone che sono coinvolte in questo, perché il bullismo si caratterizza del bull, appunto, del protagonista, della vittima, delle persone che fanno da spettatori a questo comportamento o a questo fenomeno sociale deviante e soprattutto i genitori, che ruolo possono avere, gli insegnanti che possono avere per riconoscere attraverso i segnali che vengono dati dai ragazzi questo comportamento che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti anche con la presenza del capitano dei Carabinieri, possono portare a veri e propri fattispecie di reato. E quindi, non essendo il bullismo tipizzato in una fattispecie di reato specifica, può dar luogo a diverse categorie di reati, dalle percosse, le lesioni, le minacce, la diffamazione, lo stalking e quant'altro. Ovviamente, parlando di un contesto riferito a ragazzi, esiste sempre lo scriminante dell'età, però è importante anche dalla radio fornire gli strumenti alle persone per poter individuare sul nascere quelli che sono appunto dei comportamenti che possono comportare delle conseguenze sia da un punto di vista penale, quando si possono ravvisare delle fattispecie di reato, ma soprattutto anche delle conseguenze dal punto di vista psicologico per i ragazzi e per le famiglie coinvolte in questo che abbiamo definito un fenomeno sociale moderno, molto contemporaneo, molto diffuso nella società e che attraverso i social costituisce il cosiddetto fenomeno del cyberbullismo, che è stato disciplinato da una legge dello Stato e che ha previsto figure specifiche. Allora, io, fatta questa piccola premessa, do il benvenuto in trasmissione alla dottoressa Enza De Roma, psicologa e psicoterapeuta dell'associazione La Fonte 2004 Onlus, che da tanti anni si occupa di sostegno alle famiglie e nello specifico ha iniziato anche ad occuparsi da diverso tempo anche dei fenomeni legati al bullismo. Allora, dottoressa, benvenuta in trasmissione, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, entriamo subito nel tema della trasmissione. Ho detto all'inizio che i protagonisti del bullismo sono appunto i bulli, quindi dominanti o gregari, le vittime e gli spettatori. Ecco, ci puoi definire in maniera semplice, per far capire ai nostri ascoltatori, chi sono questi soggetti, cominciando proprio da chi è il bullo? Okay. Allora, il bullo, innanzitutto, bisogna un po' sfatare un mito. Nell'immaginario comune abbiamo l'immagine del bullo come il ragazzo grosso, trasandato, sovrappeso. In realtà il bullo può essere tranquillamente un ragazzo all'apparenza uguale a tutti gli altri, anche un po' uguale alla vittima. Come aspetto psicologico, forse la caratteristica più importante del bullo è la fatica a fare contatto con le proprie emozioni. E questa fatica a fare contatto con le proprie emozioni gli impedisce anche di fare contatto con le emozioni degli altri, quindi di sintonizzarsi su un canale empatico, per cui tende a gestire le proprie emozioni sfogandosi sull'altro, provando a piacere nel fare del male all'altro, nel vedere la sofferenza dell'altro, anche quando l'altro chiede aiuto. Il bullo, abbiamo due tipi di bulli: il bullo, come dicevi tu Marco, quello dominante e quello gregario. il bullo dominante è un po' il leader del gruppetto, perché il bullo si può muovere o da solo o in un gruppo, di bulli. Quindi è colui che comunque rispetto alla vittima è tendenzialmente o più grande sia fisicamente che di età, o anche più importante socialmente rispetto alla vittima. Di conseguenza c'è sempre una posizione dove il bullo vince sempre e la vittima perde sempre, non c'è mai uno scambio di ruolo in questo senso. È un ragazzo che fa o una ragazza che fa fatica a rispettare le regole, irascibile, impulsivo, con un'autostima anche alta. Tendenzialmente questi ragazzi, da studi si è visto che possono avere problemi per esempio familiari o disturbi magari anche legati all'apprendimento. Sono ragazzi che approvano la violenza per ottenere un guadagno personale, un vantaggio, e non sono capaci, come dicevo prima, di mettersi nei panni degli altri. Sono abili nello sport e nelle relazioni, nei giochi, e soprattutto una caratteristica molto importante che poi lo distingue sia dalla vittima che dal bullo di gregario è che non soffre né di ansia né di insicurezza. Il bullo gregario invece è colui che appunto soffre di ansia e insicurezza, e molto spesso si sposta nella posizione di bullo perché a sua volta ha paura di essere vittima di bullismo. Di conseguenza si mette nella posizione del più forte per uscirne fuori da un esito che trova inevitabile. E quindi si aggrega appunto al gruppo dei bulli, ha un rendimento scolastico basso tanto quanto il bullo dominante, è un soggetto ansioso. Non è molto popolare, cerca la popolarità appunto avvicinandosi al bullo dominante, e al contrario del bullo dominante prova sensi di colpa perché ha un po' una tendenza a potersi immedesimare nella vittima. Quindi scusami Enza, abbiamo visto come la figura del bullo si può dividere tra cosiddetto bullo dominante e bullo gregario, con delle caratteristiche specifiche di ognuno. Quindi il bullo dominante è una persona, sicuramente un ragazzo più o meno forte, più o meno consapevole, che non ha un rapporto empatico con le vittime, mentre il bullo gregario è una persona, è un ragazzo, una ragazza che può essere che si lega invece a questo rapporto più forte con il bullo dominante, che però poi prevarica anche lui o lei, le vittime di questo bullismo. Ecco, esatto. Parliamo invece di chi è la vittima, così facciamo un quadro complessivo ai nostri ascoltatori e poi magari entreremo di nuovo a... Quindi la vittima invece, che solitamente poi è purtroppo colui che subisce le conseguenze di questi comportamenti nefasti posti in essere da questi ragazzi o ragazze nei confronti dei propri coetanei o persone, diciamo, della propria cerchia, soprattutto in età, ovviamente ci rivolgiamo a, parliamo di ragazzi e ragazze in età scolare. Ecco. Sì, tendenzialmente questo è un dato importante che dicevi, perché per esempio l'età della vittima si è abbassata di molto. Adesso parliamo anche di bambini di 5 anni vittime di bullismo. Fino a qualche anno fa si parlava soprattutto di, con un inizio alla scuola elementare, ma un picco nelle scuole medie per poi andare a scemare nelle scuole superiori. Adesso invece si parte già dalla scuola materna, questo è un dato molto importante. Quindi si è abbassato? Si è abbassato di molto, sì. Anche parliamo del 22% dei casi dei bambini di 5 anni proprio vittime di bullismo. Ah, quindi questo è una cosa che personalmente non conoscevo, quindi da questo punto di vista dobbiamo invitare anche i genitori soprattutto ad avere una vigilanza dei comportamenti dei propri figli già in età non soltanto scolare, ma in questo caso anche prescolare. Esatto. Allora, anche la vittima si distingue in due tipologie. Poi la seconda di cui parlerò è una tipologia molto delicata, perché viene anche un po' stigmatizzata nell'immaginario popolare. Tendenzialmente però la vittima è un ragazzino che tende a essere isolato, anche lui non va abbastanza bene a scuola, magari mingherlino, che fa fatica a stare nelle relazioni, tendenzialmente viene anche preso in giro anche in maniera bonaria, quindi un ragazzo che è facile preda proprio perché non è protetto dal gruppo, che sappiamo bene che nell'età, insomma, della crescita, il gruppo dei pari ha un ruolo molto importante anche per la costruzione dell'autostima, della personalità. Tende a stare un po' sulle sue. Sì, tende un po' a stare sulle sue. Abbiamo due tipi di vittime, quella sottomessa e quella provocatrice. Allora, la vittima sottomessa è la classica vittima, quindi quella più debole, è ansioso, è insicuro, non va bene nello sport e nei giochi. Al contrario, no? Bullo dominante. Esatto. No? ha una bassa autostima, come dicevamo tende a isolarsi, non sa difendersi, ricerca sempre la protezione altrui, ma allo stesso tempo non la sa neanche chiedere, è contrario a ogni tipo di violenza e nega l'esistenza del problema al punto tale che molto spesso ritiene che sia sua la responsabilità delle vessazioni da parte del bullo. E questo poi gli impedisce molto spesso anche di chiedere aiuto. Ecco, quindi un tratto importante per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze vittime di bullismo, soprattutto se rientrano nella figura della cosiddetta vittima sottomessa, è quella di non essere in grado di poter comprendere o denunciare il fenomeno, esatto, proprio perché non c'è percezione del problema? In realtà si sentono, nega, cioè la percezione c'è ma la nega in quanto si sente responsabile di ciò che gli accade. È come se si sentisse che provocasse l'altro, che è un po' il suo destino, non un po' la sua posizione lì all'interno del nucleo scolastico, della classe, perché molto spesso avviene proprio all'interno della classe, spesso il bullo è compagno di classe della vittima o compagno di sport, per esempio. Allora ti chiedo, in questi casi come si può aiutare la vittima e soprattutto come possono essere letti i segnali da parte degli insegnanti, da parte dei genitori o di chi fa parte per aiutare questa persona a prendere consapevolezza del problema. Aggiungerei anche un'altra domanda su quella che hai fatto, perché forse un po' coincide, no? Anche gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto genitori che hanno preso praticamente e aggredito i professori possono essere segni negativi nei confronti di queste persone, che cioè diventano più forti vedendo che i genitori vanno contro un professore. Il bullo può prendere Il bullo apprende quel comportamento in casa, cioè non è un ragazzino che manifesta l'aggressività gratuitamente, viene da un contesto aggressivo, sì, di conseguenza c'è un rinforzo. Ok, prego, alle domande di Marco. Rispetto ai segnali, mi chiedevi i segnali. Allora, tendenzialmente i segnali che il ragazzo vittima di bullismo manda sono quelli più apparenti del poter tornare a casa o con i vestiti strappati o con gli oggetti scolastici rovinati, contusi o che. E una fatica a dormire, un disturbo d'ansia, e inappetenza alimentare, un isolamento sempre più importante, una richiesta di non andare più a scuola o addirittura di cambiare scuola, di non andare più a fare sport, e può avere sbalzi d'umore, passa da uno stato depressivo a reazioni aggressive inappropriate, e molto spesso questi ragazzi si trovano a chiedere o a rubare del denaro per poter darlo poi al bullo. Quindi questi sono dei segnali che i genitori possono cogliere. Il rendimento scolastico che cala sempre ulteriormente, perché questi ragazzi poi arrivano a un certo punto dove proprio fanno fatica a gestire anche le operazioni quotidiane più comuni, come il fare i compiti, il cambiarsi i vestiti, il lavarsi, prendersi cura di sé. Certo, quindi una propensione all'isolamento ancora più rafforzata rispetto al comportamento personale già del ragazzo o della ragazza, che dà dei sintomi, diciamo, abbastanza evidenti dal punto di vista della quotidianità, quindi con un basso rendimento scolastico, quello che poc'anzi ci hai descritto. Quindi da questo punto di vista, per i genitori o per gli stessi insegnanti o per la comunità familiare di cui fa parte il ragazzo o la ragazza, ecco, sono segnali che possono mettere un segnale di allerta rispetto alla possibilità che questo ragazzo o questa ragazza possa essere vittima di comportamenti abbastanza forti da parte dei propri coetanei, che si possono trasformare in veri e propri atti di bullismo. Esatto. Quindi dicevi la vittima sottomessa e la vittima provocatrice. Ecco, la vittima provocatrice è quella che molto spesso i genitori dei bulli dicono però l'ha provocato, perché è un ragazzino che parlo di ragazzino perché la vittima provocatrice è tendenzialmente di sesso maschile, quindi rispetto alla vittima sottomessa, che c'è una buona differenziazione tra maschio e femmina, quella provocatrice è tendenzialmente maschile, proprio perché implica un agito aggressivo importante. È un ragazzino irrequieto, impulsivo, iperattivo, ha problemi di concentrazione, è goffo, immaturo, anche lui è ansioso, insicuro, ha una bassa autostima, è preoccupato per la propria incomunità fisica e tendenzialmente utilizza anche lui la violenza per attirare l'attenzione del bullo. E perché è un suo modo per difendersi dalle angherie, ma allo stesso tempo non ha le risorse, non ha le competenze per mettersi allo stesso livello del bullo, perché come dicevamo all'inizio c'è proprio una disparità fisica, spesso d'età, quindi la vittima è impossibile che sul piano fisico possa vincere sul bullo. Sono altre strategie che le vittime dovrebbero utilizzare per uscirne da questo meccanismo, non certo quella fisica, certo, o quella dell'aggressività verbale, insomma. Ecco, rispetto alle varie figure che abbiamo illustrato di vittima, sottomessa o provocatrice, ti chiedo invece di declinarci come si caratterizza il bullismo al femminile e al maschile, perché esistono sia forme di aggressione nel contesto maschile che nel contesto femminile, quindi capirne insieme a te un pochettino le differenze, perché questo fenomeno non è soltanto maschile o femminile, ma riguarda sia ragazzi che ragazze, e quindi da questo punto di vista aiutare a comprendere come si declinano nelle due nei due generi. Allora, il bullo maschio rivolge tranquillamente le sue attenzioni sia ai maschi che alle femmine, e il bullo femmina più verso le femmine, cioè quindi il bullo maschio tendenzialmente è eterodiretta. Eterodiretta è anche un altro tipo di bullismo, nel senso è un bullismo diretto, agito, quindi abbiamo percosse, spintoni, sputi, offese, tutto ciò che è aggressività pura. Il bullismo femminile invece è più sottile, nel senso è quello indiretto. E la vittima di bullismo tendenzialmente, se il bullo è una femmina, si ritrova in una situazione in cui intorno a sé girano voci, soprannomi, calunnie. Non le viene mai rivolto direttamente l'agito aggressivo, ma si crea intorno tutto un alone, per cui poi questa ragazzina tende a essere isolata, viene vista come la cattiva ragazza, tutta una serie di epiteti. Quindi diciamo viene costruito intorno alla figura della ragazza. È da sottofondo, anche se poi casi di cronaca ci insegnano che anche le ragazze, perché un po' i ruoli di genere sono cambiati, ultimamente stanno anche loro agendo l'aggressività, però nella maggior parte dei casi quello femminile è indiretto e utilizza anche molto il canale web, perché non so se ne avete già parlato in altre trasmissioni, c'è un po' questa maschera che il bullo può mettersi attraverso i social network, per cui può agire il bullismo non prendendosi la responsabilità. Beh, quindi sì, abbiamo parlato cyberbullismo, no? Esatto. Ecco, quello è il fenomeno che poi attraverso i social network diventa cyber, e come abbiamo detto proprio all'inizio di questa trattazione sulla fattispecie del bullismo e del cyberbullismo, è diventata proprio una norma dello Stato che ha disciplinato alcuni aspetti, e per questo avevamo chiesto l'intervento in trasmissione del dirigente scolastico, perché la legge prevede appunto delle figure specifiche anche all'interno della scuola. Ovviamente noi cerchiamo di farlo anche rispetto al bullismo, perché il fenomeno prima diventa diciamo locale e poi si trasferisce sui social. Esatto. Quindi capire per esempio che una forma di bullismo, in questo caso per esempio relazionale legato alle ragazze, può poi trascendere in quello cyber perché utilizza gli strumenti social per diffondere questa cattiva fama per la persona, per la ragazza che viene isolata dal contesto di riferimento e quindi viene messa in cattiva luce rispetto, esatto, agli altri. Quindi questo sicuramente, mentre per la violenza per il bullismo al maschile si declina più come una violenza forse fisica, no? Fisica, anche verbale, ma proprio c'è un agito aggressivo diretto. Noi maschietti siamo più propensi al contatto. C'è il contatto, quindi. Esatto. Ecco, allora a questo punto ti chiedo, visto che abbiamo fatto una panoramica delle figure, poi magari entreremo, come si riconosce la vittima e come si riconosce il bullo proprio vedendo questi comportamenti, no? Lei è già accennato all'inizio, quindi hai dato dei tratti mm-hmm. per poter delineare le figure, però poi in concreto, perché noi dobbiamo essere anche fornire degli strumenti utili ai nostri ascoltatori, soprattutto ai genitori in ascolto, per poter dargli degli strumenti chiari, perché poi magari gli strumenti di tutela li abbiamo visti nella scorsa, però proprio per rendersi conto di questo problema che possono vivere i propri figli. Allora, un po' l'abbiamo accennato prima, quindi rispetto al tornare a casa malconcio, diciamo, con gli effetti personali rovinati o distrutti, può presentare lividi, graffi, ferite, non ha un amico di riferimento? Questo parliamo per quanto riguarda la vittima. Perché noi dobbiamo dare la possibilità ai genitori di conoscere anche certo, il bullo, certo, perché certo. poi cioè, il problema non è solo il problema certo. lo vive la vittima, ma però il comportamento il deviante lo ha anche il bullo, che poi può avere anche delle conseguenze di natura giuridico penale, perché sì. Poi sì, ma sia nel bullo che nella vittima poi si strutturano in età adulta delle personalità. E un po' concludendo rispetto alla vittima, diciamo la vittima quindi non ha amici, non viene invitato alle feste, la mattina non vuole andare a scuola o compie il tragitto più lungo, esce più tardi da scuola per evitare di incontrare i bulli, perché gli episodi di bullismo non avvengono solo all'interno della scuola ma anche nel tratto casa-scuola. Invece per quanto riguarda il bullo è le caratteristiche per cui poi è possibile individuare il bullo, un ragazzo che prende in giro con facilità e è anche in modo pesante, rimprovera, minaccia, intimidisce, danneggia gli oggetti, non rispetta le regole e non rispetta quindi neanche le autorità, quindi si rivolge male sia agli insegnanti che ai genitori. Non va bene a scuola. E su questo l'inciso che aveva fatto Stefano prima, cioè rispetto a quello che stiamo sentendo quotidianamente dai mass media, cioè il fatto che ci possano essere dei genitori addirittura che usano violenza nei confronti dei genitori, oppure gli stessi ragazzi che a scuola minacciano o in qualche caso aggrediscono gli insegnanti. Allora, rispetto alla domanda precedente, no, dei genitori, raccordandomi un po' anche alla tua, del come può il genitore del bullo riconoscerlo, in alcuni casi, come nel caso sopra citato, no, è impossibile che il genitore riconosca che il proprio figlio è bullo, perché a sua volta è un bullo. Ma nei casi in cui il ragazzo si trova a essere bullo in una fase transitoria della vita, perché magari sta passando un momento difficile familiare, come può essere una separazione o altri problemi importanti, allora in quel caso magari il genitore, se è abbastanza concentrato sul figlio, alcuni segnali può coglierli. Se il ragazzo invece il comportamento lo apprende in famiglia, lì possiamo sperare nella scuola. Questo è un fenomeno, questo poi sono le distorsioni anche della società attuale. Ti chiedo infine, perché il tempo a disposizione volge al termine, voi state realizzando o avete realizzato un'applicazione per aiutare ragazzi e famiglie a contrastare il fenomeno. Ce ne puoi parlare, proprio per capire come le persone anche sul nostro territorio esistono delle realtà, in questo caso associative, come la Fonte Ollus, che da tanti anni si occupano di strumenti per sostegno alla famiglia, in questo caso anche ai ragazzi. Sì, noi come scuola abbiamo vinto un progetto della Regione Lazio che finanziava dei progetti proprio per la lotta come al bullismo. Associazione. Sì, come associazione, per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Questo progetto consta in due parti, una parte che inizierà oggi, volta proprio nelle scuole, dove formeremo i ragazzi delle scuole superiori di Subiaco e Olevano sulla peer education, quindi fornendo ai ragazzi uno strumento per moderare anche eventuali situazioni all'interno della scuola. E poi la seconda parte del progetto riguarda questa applicazione che si chiama No Bullying, che è scaricabile sia su Android che iOS. Questa applicazione va su due binari. Un binario è legato a un aspetto informativo, quindi è possibile visionare video, audio, articoli legati al bullismo. Un'altra parte invece riguarda una chat, dove il ragazzo ci può accedere in forma anonima, e una chat privata dove dialoga direttamente con uno psicologo, uno psicoterapeuta, dove può chiedere informazioni, può essere accolto per poi essere magari indirizzato da noi o altrove, e può fare domande, insomma può aprirsi tranquillamente, tutto in forma anonima. Anche i genitori? Anche i genitori. Chiunque può scaricare l'applicazione, quindi... Quindi l'applicazione si chiama... No bullying. Quindi si può scaricare sia su piattaforma Android che su piattaforma iOS. Facciamo uno spelling per non bullying, perché qui c'è gioco di parole con... NOBULLYNG. Ok? Quindi, da questa... Un po' lo conosciamo l'inglese. No, perché c'è anche il bullying. No, bullying... Da non confondere, capito? Questo da to bulls, no? Certo. Quindi da questo punto di vista, ecco, un servizio importante è quello di poter mettersi in contatto attraverso la chat direttamente con specialisti psicologi, psicoterapeuti che possono aiutare sia la vittima, sia i genitori o gli insegnanti che volessero... Anche in qualche... gli amici. O gli amici. I famosi spettatori, no? Ecco, di cui non abbiamo parlato, che sono poi l'altra componente di tutta questa cerchia che compone questo fenomeno sociale. Stefano. Io direi di rinvitare la dottoressa in una nuova puntata, no, perché bisogna comunque portarla avanti questa iniziativa per quanto riguarda il bullismo, no? Beh, come abbiamo sempre detto, ritorneremo sui temi, sugli argomenti, affrontandoli da punti di vista diversi, proprio per dare ai nostri ascoltatori un panorama complessivo sul tema che affrontiamo, e quindi sicuramente rinviteremo la dottoressa per parlarci ancora di questa dal punto di vista, in questo caso, psicologico, perché bisogna costruire una rete che consenta a tutti, quindi come professionisti siamo a disposizione per fare in modo che questo fenomeno possa essere affrontato e compreso e trovate anche le soluzioni ai problemi. E quindi a me non resta ovviamente che salutare tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio la dottoressa De Roma per essere stata qui con noi quest'oggi. Stefano, ti saluto come sempre, a tutti i radioascoltatori diamo l'appuntamento alla prossima settimana e un buon fine settimana con le elezioni alle porte, quindi sicuramente l'auspicio che le persone possano andare a votare. E noi ci vedremo venerdì prossimo.